stava a fianco al cassonetto della moglie, se non ho guardato il resto, ho visto che stava sbucando un'antenna, ho tolto questa antenna ed era una frusta nera nata lì, è nuova nuova, una frusta nera, solo che gli hanno tagliato il filo, non mi ricordo se era 4 metri e mezzo di filo, che ci volevano 5 metri. 4 metri già. 4 metri, sicuro giù? Sì, sì, oppure vai a multipli di 45 centimetri per arrivare sin dove ti serve. Vai tu a multipli di 45 centimetri, anzi prendete la testa è 44 e qualche millimetro, là. Ma fai da 45 centimetri e ottieni la lunghezza esatta per l'impedenza. Ah ecco, vabbè. Perché gli hanno tagliato sul filo, c'è tutto l'attacco, tutto quanto, è perfetto, è nuova, no, guardi, non ho voluto guardare perché non mi piace infurruggiare, se no avrei voluto attaccare la busta, magari c'era anche qualche baracchino dentro. Può darsi anche, può darsi, perché no, è possibile, è così, così che bisogna andare avanti, ho già, sempre considerando i multipli, perché sono parte integrante dell'antenna, quel cavo lì, dunque ha bisogno di essere di una determinata lunghezza rispettando i multipli, siccome 45 cm è come il cavo, lo spessore che metti a lineare, no? E anche quello fa parte del multiplo della frequenza, degli 11 metri, perché se tu conti 45 per dire per 2, per 3, per 4, per 10, per 20, eccetera, arrivi alla lunghezza giusta che ti serve, in modo che l'impedenza dell'antenna non venga alterata. Ho capito. Perché io mi ricordo che nella Turbo 2001 ne avevo 5 metri, però da un'antenna all'altra cambia, capito? E ne metti 4,50, capito? Vai a multiplo di 45, ne vuole 4,50 e sei a dama. Cappa, se no mi faccio una cosa, mi compro una di quelle antenne più piccole che la vendono, quelle della Lafayette, che sono piccole piccole, c'hanno lo stesso attacco, c'hanno già il cavo pronto, non posso altro che attaccare l'antenna e fatto io. No, volte 44 centimetri, è la lunghezza giusta che ti serve. Giulio. Certo che ti copiamo. Un attimo che sta chiamando Tonino. Vai Tonino. No, no, fatela questo qua, dopo te lo dico. Avanti Marco. Ehi, sto rientrando, dai. Sto rientrando. 9, 5, 6 qua, Marco. 8 qua, sì, Marco. 8, radio 5. Beh, il radio come mi senti adesso, Marco? Ho cambiato la capsula. Capo, ho messo quella verde, dai. Quella verde, adesso sono anche lontano, mi metto più vicino, magari mi senti anche più forte. Guarda, adesso sono più vicino. Poco fa ero una lontananza di un braccio e mezzo, dai. Ehi, vicino, vicino è anche più bella, perché si abbassano un po' i toni alti e entrano in funzione anche i toni bassi, siccome tu hai una voce come la mia, per così dire stridola, con i toni alti, e allora avvicinandotela è anche più bello. E siete sopra i cicciatti, è passato già nel Giulio. Cavagava. Vabbè, Tony, sempre in vendita con l'apparecchio, Cosa, sempre? In vendita con l'apparecchio, Quale apparecchio? Quello che ti ho detto. Ma mia nipote non voleva spendere di tanto, capito? Poi ci ha trovato un altro come il mio. Ah, va bene, ok. Andare. Poi se questo lo faccio sentire com'è. Giulio. Dimmi. A riferimento a poco fa che dicevi del cavo dell'antenna, l'ho sensato per ABM. Allora io fin tutt'oggi, fino adesso, sempre convinto che bisogna rispettare il metraggio quando fai un dipolo, 2,75 e 2,75. Avendo un quarto d'onda, avendo mezz'onda, allora aumenti 5,50 e 5,50. Giustamente se poi alterare il stazionario, mezzo centimetro da parte e mezzo centimetro dall'altra, eliminare il stazionario. Però se il cavo che dà un'antenna, che danno per la macchina, vuole misurato in base ai metraggi e dà l'impedenza giusta, questo non lo sapevo. Eh sì, è così che deve essere, cioè noi non ce ne curiamo del capo di discesa, come regola, io parlo naturalmente per fare in maniera precisa tecnicamente, poi chi se ne frega, ne abbiamo per dire 25 metri, 25 metri ne utilizziamo, però se noi dovessimo considerare 25 metri di capo, in realtà io ad esempio io ne ho 25 metri di capo ed è H1000 e mi è dispiaciuto tagliarlo, perché anche se ne potevo tagliare, che so io, anche 5 metri buoni che non mi servirebbero per arrivare dove ho la stazione io, però ho pensato, ma se un domani tiro sull'antenna allora ho bisogno di un capo ancora più lungo e l'ho lasciato tutto e va bene così, è sul tetto e non me ne frega niente, per dire, no? Ma a parte quello, stavo dicendo, c'è da fare la considerazione la velocità di propagazione delle onde degli 11 metri, no? Che va considerato facendo una operazione matematica rispetto alla velocità di trasmissione, ad esempio la H1000 a 0,83 di trasmissione, l'RG58 a 0,66, il 213 lo stesso a 0,66, in base a quella velocità di trasmissione bisognerebbe fare il calcolo per avere la lunghezza esatta, proprio per essere pignoli, per avere l'impedenza perfetta dell'antenna, perché il capo di discesa va senz'altro, va fatto preciso all'impedenza dell'antenna. Tu mi dirai, ma il capo non è 50 ohm, certo, ma se è disaccoppiato dall'antenna ci può essere un problemino, cosa che noi poi ci passiamo sopra e ce ne freghiamo lo stesso, sia ben chiaro. Però se un radioamatore è talmente pignolo e vuole fare un impianto ad altissimi livelli, deve fare anche quel calcolo lì. Capito, Tony? Ma guarda, sinceramente, allora, ricapitolando, un'antenna di un tiro o una grappa lì, un'ipotesi, che è un quarto d'onda, giustamente, allora dovrei utilizzare un RG58, diciamo per 2,75 metri, 2,75, e c'è un quarto d'onda, perfetto, mezz'onda 5,50, 5,50, sono 50 di onda, dovrei usare 5,50. 11 metri, che sarebbe un'onda intera, 11 metri di cavo e l'otterate insieme all'antenna. L'RG58 è un cavo sottile, giustamente, per poter modulare con l'antenna una qualsiasi antenna, però usiamo l'RG8, cioè l'RG213, che è molto più grosso e ha meno dispersione. Questo è il calcolo che io facevo, ho sempre fatto, che poi penso che non sono neanche sbagliato. Allora, intanto bisogna tenere in considerazione diverse cose rispetto a quello che facciamo noi. Va bene perché lo riteniamo che va bene, però in realtà tecnicamente non andrebbe bene. Prima di tutto bisogna fare il calcolo della lunghezza d'onda, su quale canale vuoi che sia accordata. Tanto per fare un esempio, sul canale 20, ecco, devi prendere la frequenza del canale 20, e fare la velocità della luce, che è 300.000, che poi in realtà non è proprio quella la velocità esatta, perché anche lì c'è da parlare, però supponiamo 300.000 per 27 eccetera eccetera, non so adesso sul canale 20 quanto è, 27, 205 se ricordo bene, no? E fai quello e ti dà la lunghezza d'onda, ti dà questa lunghezza d'onda, poi va moltiplicata per 0,66 per poter avere la lunghezza effettiva del cavo di discesa. Supponiamo il caso che arriva alla tua radio, arriva 25 metri e non è corrispondente al calcolo che si deve fare, allora devi fare 45 cm ad esempio in meno o 45 cm in più a secondo del calcolo che ti risulta. Mi sono spiegato, Tony? Più o meno ti sei spiegato. Dunque, la velocità della luce, basta sapere la distanza Terra-Luna e sai quanto è la velocità della luce. Sono rientrato comunque. Ti brucio tutto, Giulio! Giulio, avanti! Hai detto delle cose, però posso aggiungertene anche io di altre cose. Eh beh certo, ci sono tante cose da dire, vabbè, ce ne sono tante di cose. Ripeto, noi ci facciamo gli impianti perché li facciamo così, e bene o male vanno bene ugualmente per i CB, però se si dovesse fare veramente un impianto con condizioni tecniche ben precise, bisogna tenere in considerazione tantissime cose. Intanto la velocità della luce, la frequenza per cui tu vuoi che sia l'antenna fatta, adattata, perché ogni canale ha una sua frequenza, no? Giusto? E poi bisogna considerare anche la velocità di propagazione del cavo, che ha diversi valori a seconda del cavo che uno utilizza, tutto lì, robe. Allora, tu hai detto delle cose a riguardo di antenne, sono pienamente d'accordo, a riguardo del cavo assolutamente non d'accordo. Il cavo, l'impedenza è sempre stessa, cioè 50 metri o 100 metri l'impedenza del cavo è sempre quella, per cui non c'entra niente il discorso del cavo con l'antenna. Il cavo è un trasmettitore di segnale, mentre l'antenna è un'altra cosa. Stiamo confondendo le due cose. Il cavo non c'ha niente a che vedere la lunghezza l'onda del cavo con i parametri che stai dicendo tu. Il cavo lo puoi fare 10 metri, 23 metri, 30 metri, 22 metri, come di dispari o meri pari, non influisce assolutamente sul come rendimento dell'antenna. L'antenna, assolutamente d'accordo, deve avere dei parametri per costruirla, ci sono tutti un sacco di valori, tipo di materiale, conducibilità del materiale, velocità della luce, perdita, eccetera eccetera. Il cavo non c'ha niente a che vedere col discorso della lunghezza d'onda dell'antenna, lo puoi fare di qualunque lunghezza, l'importante è che sia dell'impedenza accordato con l'impedenza dell'antenna, quello lì è importante. Appunto, è quello che è l'errore che stai facendo tu, è proprio quello. Io non ho parlato di potenza dell'antenna, io ho parlato di adattamento di cavo all'antenna, e per adattare perfettamente il cavo di discesa all'antenna devi fare quei calcoli, e non me lo dire a me che ho fatto io 12 anni da antennista. Sì, ma io ti sto dicendo, siccome l'impedenza del cavo è standard, indipendentemente dalla lunghezza, tu ne puoi avere 10 metri o 50 metri, tu lo misuri con un strumento preciso, è sempre quella l'impedenza, da in questo caso 52 ohm, non ha niente a vedere col discorso dell'antenna, perché tu puoi avere anche l'antenna a 75 ohm, il cavo rimane sempre 52 ohm come lunghezza, cioè, perché qualcuno dice bisogna farla a seconda della frequenza di trasmissione, devi fare il cavo in sottomultipli della lunghezza, in sottomultipli in questo caso, della lunghezza d'onda, non è assolutamente vero, te lo dimostro scientificamente, non sono cose che dico io. Misurate, c'era l'altro giorno proprio una discussione di questo qua, e stava parlando proprio di questo fatto qua, in una rivista specializzata, e addirittura ha parlato di cavi a 75 ohm. Provate scientificamente con gli strumenti, prendere un cavo a 75 ohm di grandissima qualità, montato su un'antenna della 27, rispetto a un cavo RG58, non hanno trovato nessuna differenza di resa. Addirittura è andato leggermente meglio, hanno fatto tutte le prove possibili e immaginabili con strumentazioni da laboratorio, questo laboratorio, e ha dimostrato che non c'entra assolutamente niente il discorso della lunghezza del cavo, e quello che conta l'antenna, il cavo lo puoi fare da 10 metri, 12 metri, 11 metri, non cambia niente. Allora non mi hai capito quello, io non ti sto dicendo che varia l'antenna, io ti sto dicendo che il cavo deve essere adattato perfettamente alla lunghezza dell'antenna, cioè della frequenza in cui l'antenna risuona. Mi stai capendo? Poi che il cavo può essere anche 1000 metri, lo sappiamo benissimo che sono 50 ohm, però quando tu fai una discesa di antenna con un cavo che non è calcolato matematicamente, premesso che va bene lo stesso, questo lo sappiamo, anche se c'è differenza di un metro, due metri, 30 centimetri, quanto vuoi, tutto quello che vuoi, però se tu fai il calcolo matematicamente come deve essere, adatti perfettamente l'impedenza del cavo all'antenna, mi sono spiegato? E viceversa, l'antenna che adatti all'impedenza del cavo del trasmettitore, non il cavo non lo puoi modificare, se tu lo fai a pezzettini il cavo rimane, se tu adatti l'antenna ai 52 ohm dell'apparato e in questo caso del cavo, non viceversa. Aspetta un attimino, non è come stai dicendo tu, l'apparato 50 ohm, il cavo 52 ohm, per dirlo, ed ecco che c'è già una differenza. in che cosa sta la differenza? Sta nel dielettrico del cavo stesso, è lì il valore del cavo, a riguardo degli ohm eccetera. Dunque, se tu fai il calcolo matematico, risulterebbero perfettamente sia il cavo che l'antenna dello stesso valore. Io penso che te lo stia spiegando in maniera chiara. A riguardo della velocità della luce, sono balle, perché non è la velocità della luce, non sono 300.000 km al secondo, come si dice, sono esattamente 299, 792, 458 metri. Questa qui è la velocità della luce, però noi quando facciamo il calcolo per la lunghezza fisica di un'antenna, calcoliamo 300.000, ma lo calcoliamo per approssimazione, però effettivamente non è quella. Se dovessimo fare il calcolo matematicamente e tecnicamente valido, come deve essere, stai tranquillo che la velocità della luce è 299.792.458, questo te lo posso garantire. E dove? Aggiungi una, ti sei dimenticato la cosa più importante, aggiungi la cosa principale. Aggiungo poi il tipo del, se io faccio, per dire, non so, un'antenna in alluminio, ha un valore, se faccio un'antenna in rame ha un altro valore, c'è da calcolare la differenza che c'è, la perdita sia del cavo che del coso, un 2%, un 3%, un 5%, a seconda del materiale che utilizzi. Anche questo bisogna considerare, certo. Allora, la velocità della luce è calcolata poco meno di 300.000 km/h, come hai detto tu, circa, e un po' meno, nel vuoto, per cui tutti questi valori che facciamo noi sono molto empirici, non c'entra niente, perché nel cavo c'è un'attenuazione, un coefficiente di velocità, lo sai benissimo, che si attenua di gran lunga la velocità della luce, per cui tutti i calcoli che facciamo noi sono, diciamo, non sballati, ma diciamo approssimativi, perché noi facciamo, diciamo, genericamente diciamo 300.000 km oppure 290.000, però nella realtà sono molto di meno. Però se tu fai un'antenna di 11,12 cm, anziché farla da 11,12 la fai da 11,16, non c'è nessuna differenza. Stiamo parlando di cose impercettibili che non danno nessuna variazione misurabile, e questo è il discorso. Io parlavo del discorso della lunghezza del cavo, perché l'ho sentito tante volte qua in frequenza, che dice: no, se c'hai l'antenna a casa, c'hai sugli 11 metri, devi fare dei sottomultipli o multipli della lunghezza degli 11 metri. Questo assolutamente non è vero. No, forse non ci capiamo, forse noi non ci capiamo, guarda, assolutamente. Allora, ripeto ancora una volta, il cavo ha una sua impedenza che si valuta tra i 50 e i 52 ohm, l'antenna ha una sua impedenza di 50 ohm, dunque c'è una variazione tra cavo e antenna. Per poter adattare perfettamente il cavo all'antenna, non l'antenna al cavo, bensì il cavo alla frequenza, al valore dell'antenna, devi fare quel calcolo. Poi tu hai parlato di un'altra cosa adesso, tu hai parlato della velocità di nella piazzetta. L'ho detto già più due volte, non una volta, l'ho detto già due volte stasera. A seconda del tipo, ci sono delle varianti di propagazione, chiamalo come vuoi, velocità di trasmissione, chiamalo come vuoi, che può essere 0,66, 0,81 come l'H155 ad esempio, 0,83 come l'H1000, 0,66 come il 213 oppure come il RG58, ci sono questi valori che sono la velocità di propagazione nel vuoto. Ti avrei fatto vedere come ho messo l'alimentazione ricevitore, spiegamelo, poi te lo spiego io cosa vuol dire. Aspetta, l'ho parlato sopra, chi è che stava parlando? Avanti. Oh, entrato, calzato, calzato, benissimo. Giulio, quello che stai dicendo tu è tutto pienamente d'accordo, però non condivido il fatto che tu cambi la lunghezza del cavo. Se tu il cavo lo fai di 10 metri o di 15 metri, non cambia assolutamente niente, perché qua tu continui a ripetere questo fatto del cavo. Il cavo è sempre quella l'impedenza. L'unica cosa che puoi modificare è l'adattamento tra antenna e cavo e trasmettitore in questo caso. Il cavo non lo puoi modificare accorciandolo, allungandolo, non si può modificare, a meno che non usi cavi di diverse impedenze, solo così la puoi modificare l'impedenza del cavo. L'impedenza del cavo è fissa e tu non puoi cambiarla assolutamente. Però ci hanno parlato sopra, Giulio, non so chi sia avanti. Chi è che parlava? No, ero io, avevo detto fate come me, mettete questa casuale e fregatevene. No, non eri tu, una segnale superiore a Giulio, più di 9:20, qualcuno stava parlando sopra. Sì, avanti. Ho detto adesso, in questo momento, l'hai detto, che bisogna adattare, tu non te sei nemmeno reso conto, tu adesso cosa hai detto? Ripeti le stesse parole e ti rendi conto di quello che hai detto, che bisogna adattare il cavo all'antenna, lo stesso discorso hai detto, se sono 2 ore che ti sto dicendo quello io, sono 2 ore, poi ripeto che noi ce ne freghiamo e non ci preoccupiamo di queste cose, è un altro discorso, però tecnicamente si deve fare, se uno lo vuole fare, se no ce ne freghiamo lo stesso e va bene ugualmente. È quello che ti sto dicendo, Robè. Poi, per quanto riguarda il cavo 75 ohm, certo che lo puoi utilizzare anche per il baracchino, il cavo 75 ohm, però come lo devi fare, tu lo sai, spiegami, perché tu hai parlato di cavo 75 ohm, spiegami come lo devi fare, perché c'è una regola anche per quello, se no 75 ohm non posso essere compatibile con una radio da 50 ohm. No, spiegami tu come fai a modificare l'impedenza del cavo della 52 ohm. Tu mi hai detto che tu, quello che hai detto, cioè io sto ripetendo le stesse cose e tu dici le stesse cose che sto dicendo io. Tu mi hai detto prima che tu devi fare la lunghezza del cavo a seconda della lunghezza d'onda di trasmissione, se sei 11 metri devi fare, hai detto così, confermi questo? A seconda della velocità della propagazione si deve tagliare la lunghezza del cavo in modo che si adatti perfettamente al valore dell'antenna. Io ho detto quello. E invece non è vero, io ti dimostro che non è assolutamente vero quello. Tu non puoi modificare accorciando, allungando, non cambia assolutamente niente, perché l'impedenza del cavo è fissa, non la puoi modificare. Per modificarla devi utilizzare altri sistemi, che non hai nessun vantaggio a modificarla. Devi lavorare solo sull'antenna, puoi lavorare accorciandola, allungandola, mettendo delle impedenze, dei variabili, condensatori, eccetera, eccetera, delle bobine. Solo così il cavo tu, se lo fai da 10 metri, lo fai da 20 metri, è sempre quello il valore, non cambia niente, assolutamente. Conferma. Cioè, allora praticamente, Giulio, io dico questo, come dicevo anche prima, sugli 11 metri di cavo, o 22 metri, o 33, sempre in base a 11 metri, sbagliato, allora sì, abito in un palazzo, mi servono 12 metri, tutto il resto arriva a 22 metri, porteremo in casa a spasso questo cavo qua. Allora, si può usare quello che ti serve, giusto come dice Roberto, hai sempre quell'impedenza. Io sono 2 ore che sto spiegando questa cosa e non la capite. Tu ne puoi usare quanto ti pare e ti piace di cavo, non ci sono problemi, non c'è problema. Però se tu hai dell'eccedenza nel cavo, ti va anche bene, seguimi, ti va anche bene. Perché? Perché non te le curi. Però in realtà, se dovessimo considerare un fattore tecnico, quel cavo lì deve essere tagliato a misura esatta, considerando l'adattamento giusto per l'antenna. L'adattamento non è l'impedenza del cavo, che è suo, lo sappiamo benissimo qual è l'impedenza del cavo, però il cavo poi deve essere adattato perfettamente all'antenna, che può essere una piccola variabile, tutto quello che vuoi, però c'è una differenza. Se invece fai il conto matematico, stai tranquillo che riesci ad adattare perfettamente la lunghezza del cavo all'antenna. non mi sono spiegato, o così difficile da capire, non mi sembra che sia difficile. Allora, quello che stai dicendo tu l'ho capito, ma ti sto dicendo che non è così, non è così assolutamente. Il cavo non c'ha niente a che vedere con il discorso dell'impedenza dell'antenna. Tu devi solo adattare l'impedenza dell'antenna, tu sei il cavo, lo faccio di mezzo metro, l'attacco, a parte vabbè i problemi di rientro e cose del genere, lo faccio di mezzo metro, 5 metri, non esiste nessun parametro fisico che ti dica devi accorciarla di 11 metri, di 11 metri e 20, 11 metri e 30, il cavo, non parliamo dell'antenna, dimentichiamoci l'antenna noi, non esiste nessuna legge fisica che ti devi allungare e accorciare la lunghezza del cavo per adattarla all'antenna, tu non esiste nessuna legge fisica, è una leggenda metropolitana e te lo dimostro quando vuoi, mi fai vedere i libri, tutti quelli che vuoi, dove ci sei scritto delle cose del genere, e non esiste da nessuna parte questo discorso che stai facendo tu, esiste soltanto l'allargamento dell'impedenza dell'antenna, il cavo non puoi modificarlo, cioè quello lì c'ha quell'impedenza stabilita. Ma quando mai è così difficile da capire? Ma chi ti sta dicendo che deve modificare l'impedenza del cavo? Chi te lo sta dicendo? Lo stai dicendo tu, non devi modificare niente, ma per essere adattato all'antenna devi rispettare quella misura, tutto lì. Ripeto, puoi anche fregartene, non c'è problema, va bene lo stesso, ti accontenti, però scientificamente e matematicamente deve essere calcolato e tagliato con i multipli della frequenza, questo te lo posso garantire, e non lo dirà a me che ho fatto 12 anni io di antennista, che questo lo devi fare anche nel cavo TV, cosa che nessuno mai fa, perché non fa, prendiamo il caso ad esempio delle antenne di una volta, quando i ripetitori non erano potenti come oggi, metti un pezzo di più di ferro e vedi sempre, la TV la vedi sempre, eh? Allora si faceva un balun, eppure si usava un cavo anche da 75 ohm per un'antenna da 75 ohm, si faceva un balun, si faceva per adattare il cavo all'antenna e si deve fare sempre se vuoi essere pignolo, se poi non vuoi essere pignolo e te ne vuoi fregare va bene lo stesso, sono coglioni che ti sto spiegando questo. Poi non è come dici tu, che l'antenna va bene la questione di lunghezza, va bene, basta che te ne frega, un lavoro tecnicamente veramente preciso deve fare per forza, deve rispettare quelle misure, a Maragana se lo vuoi fare tecnicamente preciso, se no te ne freghi e basta, un metro in più, un metro in meno, chi se ne frega, o 10 metri in più o 10 metri in meno, va sempre bene, non è un problema per noi. Allora Giulio, accetto quello che stai dicendo, tu però ti sto dicendo è una leggenda metropolitana, non esiste, è una cosa che non esiste nessun libro di testo, diciamo forse qualcuno l'ha detto, qualcuno l'ha scritto, però scientificamente provate, io ti faccio vedere prove di laboratorio, non prove così, anche ieri l'ho letta, l'ho fatto le prove proprio di laboratorio per dimostrare questo fatto qua che è una leggenda metropolitana come i cavi, io te lo dico non per l'antenne, che le antenne sono fesserie, parliamo di cavi audio, che c'è gente che dice che il cavo a seconda del coso suona diversamente la musica, il cavo è soltanto un trasmettitore di segnale, non ha nessun'altra funzione, per cui può essere, è come un tubo d'acqua, 10 metri, 20 metri, 30 metri, c'è soltanto una perdita, può influire come perdita, le lunghezze d'onda per il cavo non c'hanno niente a che vedere, tu dici esattamente il contrario, e io ti dico che non è così, ci abbiamo due pareri diversi, dimenticandoci l'antenna, non ci influisce assolutamente la lunghezza d'onda del cavo col discorso dell'antenna, la puoi fare di qualunque lunghezza, c'è solo problemi di perdita, di velocità di trasmissione eccetera eccetera, quello tutto pienamente d'accordo, però la lunghezza del cavo non influisce assolutamente con il discorso del scoppiamento con l'antenna, assolutamente, e fammelo vedere letto, però fisicamente, non teorie fantasiose di sentito dire cose del genere, tu puoi aver fatto i corsi che puoi fare e non è dubito mi puoi insegnare tante cose, però scientificamente provato che non ha nessuna differenza di valore, accorciare o allungare il cavo, assolutamente no. Poi se facciamo altri discorsi di adattamento di pendenza, mettendo il balù, mettendo delle bobine, eccetera, eccetera, sono pienamente d'accordo. Io parlo un'antenna standard, di efficiente, eccetera, eccetera, ripeto, un cavo di 10 metri, un cavo di 50 metri, vediamo tutti i valori che puoi costare, non cambia assolutamente niente. Grazie da Bracco. Avanti Bracco. OK, Robè, ascolta, non so se c'è Fabio adesso in frequenza, eh. Fai favore, dalle il mio numero di base, se no con questo non concludo più nulla io. L'ho chiesto a lui, l'altro giorno, ci sta, non si dà il numero. Io ce l'ho anche su Facebook il numero di base, capirai, cosa deve aver paura, boh, non lo so. Se capita in frequenza dalle il mio numero di base che mi telefoni, no, quella roba la butto. Ah boh, io non lo so, avete sentito Fabio qualcuno qua? No, negativo, non è entrato. Ma chi è che stava parlando? Quando ci parla Giulio c'è uno che ci parla sopra, chi è? Non lo so, vabbè, così poco fa c'era un altro quando parlava, cosa arrivava. Vabbè, Giovanni, se dovessi entrare il tuo numero, cosa vuoi ti dica? A me non piace dare i numeri di telefono via radio, però se è autorizzato tu, glielo do, cosa vuoi ti dica? Ok, giù, adesso una discussione, assolutamente niente di più. Però io il mio parere è quello, poi tu c'hai altre idee, come uno è di destra, l'altro è di sinistra, oppure uno gli piace la Ferrari e l'altro gli piace la Maserati, però io ti ripeto, non ho nessuna cosa tecnica che mi dimostri quello che stai dicendo tu. Vabbè, tu pensa come credi, fai come vuoi. Io ho un'altra idea, ho un altro parere, perché è come dico io, stai tranquillo. Poi tu sei padronissimo di pensare quello che vuoi. Avanti il break. 5 stelle, buonasera, tutta la ruota, buonasera a tutti, qui è Chioma Rosinto, operatore Claudio, la copiata di muro. Buonasera, reporto, a te intendo. Ciao, ben sentito Claudio, ottimo segnale, oggi un po' meglio la radio, dai, rispetto al solito ti ascolto bene, cosa hai fatto? E poi ti rilancio a Giulio. Sì, sì, ho riparato la salima, diciamo, sì, ho riparato bene l'antenna, facendo la perfezione, sì, stiamo anche parlando con Viterbo, verso le pomeriggio, che era sotto il sogno, sul canale 30, diciamo, quando ti sta arrivando, mi puoi dare un controllo, vedi? 9 più 15 qua, chiediamo a Giulio che è più lontano come ti ascolta, avanti Giulio. Sì, avanti, prova Claudio. 5 stelle Giulio, buonasera, anche a te, sono un tizio, sì. Allora, come ti sta arrivando lì? È uno di altri per la radio? Ok, il segnale non è molto forte, però di radio almeno ti sento, almeno radio 5, finalmente sei riuscito a risolvere questo problema. La radio, il segnale sì, però la radio 5, a differenza di prima che non ti sentivo altre volte. Avanti Claudio. Ok, sì, sì, adesso stai uscendo bene, ripeto, il segnale non è forte, ma c'è la lontananza fra me e te, per cui non è quello che conta. Interessante la radio adesso è buonissima, va bene così, io ti sento molto bene adesso Claudio. Avanti, a chi tocca? Gianni, ci sei? C'era Tonino pure, Tonino ci siamo? Certo che ci siamo ancora. Stavo ascoltando, va bene, avete chiuso questo discorso perché stavo parlando qua con la 50. Capito? Stavi parlando 4 anni fa, scusa. Che stavo parlando con la 50, ma lo portate a ciò? No, poco fa, quando parlava Giulio, c'era un segnale su, Giulio arriva a 9.20 quando è modulato, e c'era un segnale che lo parlava sopra, non so chi cavolo era. Ma questo l'ha portato però. Adesso in questo momento portante c'è. C'è sempre una portante, tutta la sera così, che sta battendo, sembra qualcosa. Guarda, ti leggo qualche piccola cosa dal libro, guardami. Per tutto, per una risonanza esatta, uguale alla frequenza prevista per il funzionamento dell'antenna e della radio, la lunghezza elettrica del cavo di linea D deve risultare un multiplo di un quarto d'onda, quindi si può dedurre che l'impedenza a pari ai terminali d'ingresso della linea dipende dalla sua lunghezza. Il fattore della velocità, la velocità di propagazione, diminuisce nel cavo in funzione, eccetera, eccetera, vabbè, questo è un altro discorso. Per dirti, no? Ed è così, vabbè. E ti faccio leggere il libro elettronico, che non l'ho scritto io, l'ha scritto chi ne sa più di me, più di te. Allora, quello che mi stai ascoltando io l'accetto, però è una leggenda metropolitana, non è verificato scientificamente. Io ho fatto, ho visto proprio ieri, perché infatti devo aprire questo discorso, perché l'ho letto proprio ieri, hanno fatto proprio delle prove di laboratorio con i cavi, la ditta che costruisce la cosa, non so se la Belden, no, che cos'era, non mi ricordo che ditta era che costruisce, e ha fatto capire tutti questi discorsi scientifici, hanno fatto tutte le prove con diversi tipi di cavi, non con uno, hanno fatto cavo RG213, H100, H1000, ha fatto tutti i valori, tutti i coefficienti di velocità di tutti i cavi dimostrati, eccetera eccetera, addirittura ha fatto le prove con un cavo buono a 75 ohm rispetto a un cavo RG58, non hanno visto differenze, addirittura il 58 era inferiore a quel 75 ohm di grande spessore, quello grosso, di bassa perdita, è tutto il risultato migliore di poco rispetto al 58 che era un cavo da 52 ohm, per dire. Sono leggende metropolitane che ci dicono, però scientificamente provato, trovami un libro che mi fa vedere tutti i valori provati che cambia qualcosa a seconda della lunghezza d'onda del cavo. Io questa storia non l'ho sentita da te, ma l'ho sentita 30 anni fa, anche di più, eppure non c'è dimostrazioni tecniche di questo fatto qua, non c'è nessuna dimostrazione scientifica che prendi gli strumenti e fai le prove. Sono cose che si dicono, ma non solo di questo campo dei cavi, ce ne sono tante, nei campi audio. Io ti faccio vedere dei discorsi di forum di gente che è fissata, che prende il cavo, che spende anche 1000 euro, 200 euro al metro di cavo per utilizzare i cavi con rame di non so che cacchio di purezza, il connettore in oro eccetera, hanno fatto le prove scientifiche con tutti gli strumenti possibili e immaginabili per vedere se ti cambiava qualcosa, non c'è nessun valore scientifico dimostrabile. Addirittura un cavo piattina rossa e nera rispetto a cavi che costano 50-80 euro al metro, stiamo parlando di cose di fantascienza, nel senso che nessuno userebbe mai di noi, di persone comune, hanno dimostrato che non c'era assolutamente nessuna differenza, e stiamo parlando di trasmissione di segnali audio, dove di lì c'è una risposta di frequenza molto più ampia rispetto a quello che potrebbe essere un baracchino che stai solo irradiando segnali e basta, non stai facendo niente, per cui è assolutamente ininfluente certi valori. Nel discorso audio basta un cavo poco schermato, cosa del genere, e ti possono deteriorare tutto. Il cavo che arriva alle casse, hanno fatto prove con cavi economici o con cavi di altissimo coso in argento, con conduttore non so documenti, e non c'era differenza di valore. È tutta una leggenda, questo c'era l'articolo, si intitolava "È vero che i cavi suonano", perché c'è gente convinta che i cavi suonino, cioè che ti cambino la, parliamo di impianti super sofisticati. Sono leggende metropolitane mai verificate. E vabbè, tu pensa come vuoi, cosa vuoi che ti dica? Io non posso distoglierti dalle tue idee. Io solamente ti so solamente dire che è così come ti dico io, questo non ci sono dubbi. E ti leggo anche un altro particolare, il fattore di velocità. La velocità di propagazione diminuisce nel cavo in funzione del dielettrico utilizzato, come ti ho detto io poc'anzi, è in funzione di un numero che indica la percentuale di velocità rispetto all'aria. Se il suo numero è di 0,66, in questo caso la lunghezza d'onda si accorcia del 34% rispetto all'aria. Primo, il fattore di velocità serve, ascolta questa frase, il fattore di velocità serve per calcolare il disadattamento di impedenza e la reale del cavo sulla lunghezza d'onda. Questo l'ha scritto chi ne sa più di me, più di te o Robè, è inutile che tu insisti e poi avere le tue idee e non me ne frega niente delle tue idee, però io so che è così, e poi ripeto, ho fatto 12 anni di antennista e queste cose io le ho sempre sentite da chi ne sapeva più di me, soprattutto dai miei insegnanti, per cui è inutile che stai a dire insiste pure, se credi va bene lo stesso, non me ne frega niente, però hai torto, stai tranquillo che hai torto. Va bene, dai, se parliamo di antenne sono tutto al 100% quello che ha detto, assolutamente d'accordo, ci sono tantissimi fattori, decine di fattori che cambiano, però ripeto, per il cavo è una leggenda. Chiudiamo qua il discorso, se no abbiamo due pareri diversi, come tu lo vedi nero, io lo vedo bianco, chiudiamo il discorso, avanti, parliamo di altro, mi dispiace Giulio, però sono sempre cose costruttive confrontarsi, dai, chi era che stava parlando, avanti. Avanti Germany, go Germany, Italia qua, Nord Sardegna. Ok, my name is Roberto, città di Sassari, Nord Sardegna. Ti rilancio Giulio, amico Giulio, my friend Giulio. Ok, ho Roberto, Little, I speak English Little, aspetta, your city, please. Your signal 9 radio super 5 stereo. Ok Giulio, vai tu. Roger, thank you very much for the contact. Ok 73 my friend. Ok Giulio, la senti? Sì, lo sento, ma è inutile, quando parla il tedesco io non lo capisco, lui non capisce me, per cui non ha questa importanza fare questo collegamento. Se non si capisce la lingua non è inutile farlo, vabbè, comunque qualche parola si può dire anche parlando il codice Q, però ne ha niente di più, non ha importanza, dai. Facciamo girare piuttosto per gli amici di Sassari. Avanti Tonino. Comunque un po' di inglese ha parlato comunque. Che c'è rimasto qua? Avanti sul 10, che è rimasto? È scappato. Avanti Gianni, riprendi tu, vai. Sì, allora riprendo io. Vabbè, dai, magari sono cose nuove giù e sono pareri diversi. Probabilmente tu hai studiato quello, poi si scopre per dire anche del pronto soccorso. Hanno cambiato diverse cose. Prima si facevano i massaggi diversamente, adesso prima si facevano due massaggi, due insufflazioni, 15 massaggi e poi adesso sono 30. Hanno cambiato, io dico io, se prima salvavi una vita facendolo così a 15 massaggi, che poi farne 30 te ne esce la canna, perché già con 15 devi fare tre volte, lo devi fare per almeno un quarto d'ora, là. Quando ne fai 30 ti ammazza, ti taglia le braccia. Eppure prima li salvavamo, lo stesso adesso hanno cambiato le regole. Adesso c'è del debellatore già. E sta ridendo. Cianto, ho riconosciuto dalla risata, ho detto chi è, però ti ho riconosciuto. Papà, Tonino, ci sei ancora? Tonino. Sono tutti spariti, buh. Perché forse? Perché avete fatto un discorso molto lungo e si sono stufati, buh, non lo so. Vabbè, a me non mi interessa, io ascolto, mi piace anche ascoltare, però sono tutti. Cava, e vabbè. Vabbè, non voglio essere causa di polemiche, di discorso acceso, va. Era tutto per un'antenna che dovevo mettere un cavo, vabbè, non sapevo se metterlo da 4 metri e mezzo o da 5 metri. E Giulio mi ha spiegato come dovevo fare. Tu hai l'antenna uguale, che sarebbe la frusta nera, quella con la molla. Confermi? Sì. Quanto è il cavo? Non lo so questo. Adesso è passato dietro, ma a occhio e croce secondo me sarà un paio di metri. 2 metri solo? No, lo fanno 4 metri e mezzo o 5 metri il cavo. Un paio di metri forse l'hai fatto tu così. No, è già a palla di Salvatore l'antenna. Aspetta, può essere un po' di più. Adesso io sto guardando. È appoggiata sopra un armadio, sopra una libreria. Poi fa il pezzo giù, ma fai che c'è a 3 metri. Non lo so quanto ce l'hai buttata in terra, perché non la vedo, ma a 4 metri mi sembra tanto, così tanto. Io ho sempre avuto, per dire, per la Turbo 2001 ne avevo 5 di metri, questa non lo so, siccome ho avuto la fortuna di trovarla, era appoggiata a un cassonetto della Mondezza e me l'ho presa, perché l'ho riconosciuta subito, era l'antenna che stavo cercando, la frusta nera, tu, quella con la molla, come ce l'aveva Claudio, ce l'è presente? In una busta a fianco a un cassonetto, poi la busta, ho avuto vergogna a controllarla, ma magari ve la magari pure apparati, roba del genere. Ma poi quando scendo col cane controllo. Comunque sì, già sarà sui 4 metri, perché passa dietro più o meno 4 metri, adesso esattamente non lo so. Beh, sì, perché va da una parte all'altra, non so dove ce l'abbia tu l'apparato, però è così. Sembra vicina, però devi considerare il coso di 2 metri, poi scende giù, fa un altro giro, altri 2 metri, sarà all'incirca sui 4 metri, può essere anche 4 metri e mezzo, esattamente non lo so, ma occhio, sarà sui 4 metri. È capace. Vabbè, comunque, adesso vedo, va. Andare. Come mi ascolti con questa radio, Robè? No, già ti ascolto bene, ma anche stamattina mi sono andato ad ascoltare, o sbaglio. Questa qua non sgarra, Ma chi è che mette questo cavolo di portante? È che avanti, pure di lancio e non parlano. Così poco fa, Giulio arriva forte, cacchio, verrà più forte di Giulio. Quando ti arriva Giulio a te lì? 9 più 20. Adesso quando ti sta arrivando? Non per fare la comparazione, per vedere se arrivo bene anch'io, dai. No, ma tu arrivi sempre forte, 9.25, però c'è da dire che Giulio è più lontano. Vabbè. Accetto. Adesso quanto sono? Guarda, controllo, sta, prova. Attenzione, Roberto Quadrato, si ascolti doppio rum che chiama, gambiola. Cioè 20 fisso e con la modulata di 25, mentre Giulio è quasi 9.20 fisso. Questo c'ha picchi positivi. Adesso non c'è manco l'eco alto, sono lasciato basso. Scusatemi un attimino, datemi 5 minuti. No, io adesso mi preparo e vado a portare il cane, vi saluto e magari mi prendo dopo, se ne ho voglia. Se no vediamo, riprenderò con il Galassi dopo. Questo qua è l'Alan 48, Antu, non è il mangio. L'Alan 48. E questo schicchia forte, sì. E c'è il microfono normale. Palompa. Vabbè, dai, Antu, io vado, dai, che devo portare giù il cane. Ci sentiamo. Ciao a tutti, belli e brutti. E vi saluto tutti. Anche prima. Ciao, a parte gli scherzi, dentro dopo se ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao Bombolino. Ciao Gianni, ciao Antonio. Signor. Natalia, avanti. Cazzo, io mi ricordo nelle direttive per i 2 e 70 facevo il ballo. Il ballo a cosa serve? Non serve per adattare il capo all'antenna, ma Buffurene sì. E vabbè, comunque lui deve continuare a discutere della stessa cosa, intanto se uno non vuole intendere, non intende, non capisce e basta, o meglio non vuole capire. Per cui il discorso è sempre quello. Infatti, quelle antenne lì erano direttive, gli ho fatto il ballo, una o due le ho regalate a. Forse me ne è rimasta un altro e lì c'è il palo, perché me l'ho fatto anche per la C5 di luglio, ho dovuto fare il shock sotto perché c'è l'alimentazione alla fine della scala. Certo, anche quello è un'altra cosa ancora, sì, ma quello è per il ritorno della RF. Ma è così, Natali, e poi ho gli a me, ne ho fatto 12 anni l'antennista, non un giorno, 12 anni, e sono stato 12 anni a fianco ai radiotecnici e agli antennisti, eccetera, per cui poi ho cambiato mestiere perché dove lavoravo ha fallito e purtroppo ho dovuto cambiare. Però sta tranquillo, come ti dicevo. E poi ho letto anche il libro, capite, il libro l'ho scritto io, il libro l'ha scritto che ne sa più di me e più di chiunque altro, capita. Cos'è? Storia questa è. Ma io c'avevo lo stesso, mi sono documentato a suo tempo, è per quello che le facevo queste cose, le antenne me le facevo io. C'ho anche la cubica per i cimenti. Per ascoltare c'avevo quelle antenne lì. la propagazione c'è andata lì. Vabbè, ma anche se c'è propagazione non posso fare niente adesso. Infatti la propagazione che era quasi 9-10 qua da me, stavo parlando lingua straniera, che poi non ho capito l'accidente di quello che ha detto, ma è così, è così. Poi naturalmente ognuno la intende a modo suo, ci mancherebbe altro. Ripeto ancora una volta, tu prendi e taglia la misura che ti piace e va sempre bene. Però se ritorniamo a quel discorso che bisogna fare le cose tecnicamente valide, devi fare sempre quella lunghezza, non venuto da qua, utilizzando la velocità di trasmissione e qui tenendo in considerazione i multipli. A Maragana, se vuoi fare una cosa tecnicamente precisa, poi se uno non ci tiene pazienza, il primo sono io, non è che il mio capo di discesa è della lunghezza stabilita come dovrebbe essere. Ad esempio il mio capo dovrebbe essere 48 centimetri, mi sembra, se ricordo bene, meno di quello che ho adesso, però non l'ho voluto tagliare, non me ne frega niente, va bene lo stesso. Sono qui GB, non sono un radioamatore pignolo al 100%, io sono un GB e basta. Giulio. Sì, avanti. Torino. Ma allora, tecnicamente, come dici tu, ma a me cosa mi cambia anziché avere 11 metri in capo, 22 metri, averne 5 metri? Se arrivo a Santiago 9 arrivo sempre, se arrivo a 9,20 arrivo sempre. Non mi cambia niente. Quindi, essere scrupolosi, essere perfetto con l'antenna, ma non ci cambia niente, non è che se io vado, chiudo l'antenna e mi traggio del capo, arrivo più forte. No. Dispersione ne ho? No. Uso l'energia 213, non cambia nulla, ma non ho dispersione contro l'energia 50. Prego. Avanti, prego. Buonasera a tutti, ho provato tutta la roba, il marraggio e roba su, ho parcheggiato, adesso sono già a petto nudo. Buonasera a chiunque sia sul canale. Ok, dai, rispondo un attimo a Tonino e poi tronchiamo il discorso, se no questa cosa diventa una discussione troppo lunga e non va bene. Allora Tonino, quello che stai dicendo tu va benissimo, perché va bene anche per me, va bene anche per me. Però se dovessimo adattarci, è come che uno si prende un paio di scarpe e dice numero 41 quando è il numero 40, col numero 41 ci cammina lo stesso, tranquillamente, bene, non c'è problema. Lo stesso discorso è quello che stiamo facendo sul cavo. Il cavo di discesa, per essere bene adattato all'impedenza dell'antenna, deve essere calcolato matematicamente rispetto alla frequenza che uno utilizza, perché se tu sei sul canale 20 ha una lunghezza, se sei sul canale 40 ne ha un'altra, se sei sul canale 60 ne ha un'altra e così via. Però ripeto, noi ce ne freghiamo, anzi diciamo che in linea di massima se ne fregano tutti, però tecnicamente non è un lavoro fatto al 100%, è quello che voglio farvi capire. Poi ripeto, può essere un metro in più, un metro in meno o un decimetro in più, non ce ne frega niente, per noi ci accontentiamo e andiamo bene lo stesso. Quindi è questo che devi considerare, capito? Non sono cose che ho scritto io, a giudicare un libro, se vuoi te lo leggo di nuovo, non le ho scritte io, le ha scritte un ingegnere elettronico, che è uno che ne sa più di me, più di te, più di mille persone come noi, per cui devi tenere in considerazione questi particolari. Oh Giulio, se questo che dici che è molto intelligente, è anche ignorante, e te lo dico subito, te lo spiego subito, perché allora se non mi scrive questa cosa qua, che tecnicamente deve essere così, deve essere, giustamente, se io non vado sugli 11 metri, avrò stazionario, invece non ce l'ho, punto. Il discorso della scarpa che hai fatto è sbagliato, che se ho 40 di piede, mi metto 41 e 52 ci cammino male, mi fa male i piedi, ci lavora male il piede, e quindi è una cosa molto molto diversa. Ma giustamente con il baracchino c'è l'antenna e il cavo, è tutto un discorso che non ha niente che vedere, giustamente devi usare il cavo con l'impedenza giusta sulla testa, basta, non devi usare altro. Poi, questo è il discorso del libro che ha scritto quello che è molto più bravo di noi, di te, di tutti quanti. Per me è anche ignoranza, perché se lui diceva, ha scritto queste cose qua, devo verificare che giustamente se uso meno cavo, non vado giusto agli 11 metri, eccetera, io avrò stazionari, 1,3 e 4 non è a accendere, invece io le stazionari ne ho 1,1, ecco cosa voglio farti capire. Il discorso tuo sarà giusto, perché io lo so, da un casino di anni in vita che ho sulla frequenza, e giustamente mi hanno detto sempre 11 metri, 22 metri, 73 metri, oh, se io ho, dove abito io, metto l'antenna e ho 13 metri, arrivare a 22 metri, il cavo in più non lo devo tenere in casa mia, arrotolato, ma stiamo scherzando. Ecco il mio discorso, Giulio. E qua la chiudo. Posso aggiungere un'altra cosa? Adesso ti faccio sentire, non detto da me, dagli ingegneri. Queste qui sono due cose disposte che li stanno facendo gente a questi qua. Allora, se l'antenna è risonante e presenta 50 ohm di impedenza, qualunque lunghezza di qualunque cavo che abbia 50 ohm a sua volta va bene. Ancora nel terzo millennio sta con questa benedetta bufala dei multipli di lambda e dei multipli di qualunque cosa. Se invece il cavo d'antenna, spiega poi dall'altra parte, fa parte dell'antenna, a quel punto è importante la lunghezza d'onda, se stiamo parlando di dipoli, filari, eccetera, eccetera. Le antenne che utilizziamo noi non ha nessun valore, stiamo confondendo le cose, e questo detto da due ingegneri che hanno risposto, non da me o da te. Vuol dire tu hai delle informazioni, tu e io le mie, per cui, come dici tu, vabbè, d'accordo, contento. Tony, poi non c'entra niente la lunghezza d'onda con le stazionarie dell'antenna, sia ben chiaro questo, non apriamo quel discorso, anche perché intanto è inutile parlare, perché mi sono reso conto che non siete addentrati in maniera abbastanza buona, per cui è inutile stare lì a continuare a discutere di una cosa che non ci arrivate perché non l'avete fatto intanto mai gli antennisti, secondo, allo stesso momento non siete documentati, per cui è inutile stare lì a continuare a discutere, parliamo d'altro, non se ne parla più, va bene? Avanti Natalino. Scusa un attimino Natalino, ma sono io ho detto delle stazionari, giustamente, c'è questo ingegnere che tu ripeto che è una provincia persona intelligente, ti ho fatto il paragone delle stazionari, se lui mi diceva giustamente se non risettiamo il cavo di lunghezza avrei avuto stazionari, allora le avrò dato ragione, ecco se è il mio discorso, punto. Il cavo può essere 50 km stazionario, il cavo non te ne crea, basta, è inutile continuare a discuterne, perché intanto non ci arrivate, è inutile, basta, non ci arrivate, io non è che sono più intelligente di voi, però io ho fatto il mestiere, lo so com'è, vabbè, comunque lasciamo perdere, dai, avanti Marco. Esistono anche il balon, usate anche il balon a volte. Ok, chiudiamo il discorso, sono ignorante, ma che ti ha scusato, sbagliato. È inutile stare a continuare così a discutere di una cosa che non sapete, no, non sapete e basta, è inutile stare lì. E una volta si faceva il balon per adattare l'impedenza e si fa ancora oggi quando il cavo non è proprio perfettamente adattato. Poi se uno ci vuole passare sopra perché la differenza è quasi irrisoria da 50 ohm a 52, allora è un altro discorso. Però ripeto ancora una volta, se dovessimo parlare in maniera tecnica, precisa, perfetta, devi fare per forza quel calcolo che ti ho detto, se no non è a posto, perché non si può adattare un cavo da 52 ohm perfettamente all'antenna da 50 ohm, ecco qual è il discorso, e chiudo qua e non ne parlo più, avanti qua. Buonasera a tutti, buonasera, vi stavo seguendo a lontananza, dai, ma è la realtà, è la realtà, non esiste il contrario. Da che mondo è mondo? Da che mondo è mondo? È così e boh, va bene, ok, dai, finiti i discorsi, è inutile stare a continuare, intanto le idee ce le avrete diverse, quindi non vi capite, va bene, però Robè, io ti dico che nel 92 mi sono trovato una di quelle domande, e parlava proprio quello che ti ha detto Giulio, il cavo deve adattare l'antenna, non l'antenna deve adattarsi al cavo, ricordatelo. non è così. Va bene, chiudiamo qua il discorso, se no siamo due giorni parlando. Solo se il cavo influisce sull'impedenza dell'antenna, ci sono delle antenne direttive e cose del genere, ti do d'accordo, niente da dire. E ti ho fatto leggere le risposte degli ingegneri, due ingegneri, cercatevi le cose specializzate. C'è la domanda del cavo, uno ha detto che è una grande bufola e l'altro ha risposto un po' più specificatamente, solo se il cavo influisce sull'antenna, se no niente, tu il cavo non puoi accorciare Ganzo di Biasi, non cambia assolutamente niente il discorso, è una bufola sparata negli anni, come ce ne sono tante di bufola. E ha fatto un discorso Gianni poco fa, molto logico, che stavo parlando di altri argomenti di rianimazione, ci sono delle teorie di 50 anni fa che sono state completamente modificate, che sono rese conto che erano inutili. E ancora di questo discorso dell'antenna è ancora meglio, perché ha fatto questa ditta che produce i cavi, ha fatto le prove per dimostrare che è una grande bufala, una cosa inutile. Poi se tu a Giulio le hanno insegnato così o nei libri di scuola ci sono scritte queste cose, hanno dimostrato scientificamente con delle prove in laboratorio una ditta che produce cavi, che non è assolutamente vero, è una balla. Vabbè dai, io vado a mangiare, balla non balla, il cavo mi ha fatto venire fame. Ciao a tutti, adios. Claudio, sto facendo male comunque, sei saturo. Io sono saturo, se sto usando 5 watt, sei tu saturo. Mi sento male io, ho tutto compresso. Lo fermo anch'io qua. Tutto compresso? Controllati qualcosa, non lo so cosa stai facendo. No, io non c'ho niente attaccato, anche adesso? Io ti sento chiuso, mi chiedi anche a Giulio, giù, prova a sentire a Claudio. Ma io lo sento abbastanza bene, dunque, forse perché siete vicini, io lo sento abbastanza bene, non c'è problema. Vabbè dai, io vi saluto e vado a cenare, ci sentiamo. Ciao Claudio, Roberto, Tonino, Natalino, Gianni e quanti ce ne sono, e anche Antonio Bombolo mi sembra che c'è, e anche Marco. Salutoni a tutti, io chiudo e vado a cenare, avanti. Avanti Natalino, che si parcheggia da un bel po'. E vabbè, a me piace ascoltare. Mi piace. Anche uno sull'altro parlo. Io a cenare. No, la propagazione è quella. Vabbè, là. Al limite ci sentiamo dopo.